Diciamo che quando questi arrivarono, alcuni poterono trovare l'aiuto e il sostegno di quanti da quelle terre erano già arrivati e avevano già trovato la residenza tra il 43 e il 45. Era quello che Pupo definisce un piccolo esercito di scampati, circa 4-5 mila persone che avevano trovato rifugio un po' tra il Veneto, un po' vicino a quella regione, un po' nell'Alta Italia, in parte anche in Alto Adige, e che furono un po' i catalizzatori, perché chi arrivava faceva riferimento a queste persone, perché poi del resto avevano anche ruoli importanti nella prefettura, nella direzione di alcune fabbriche, quindi si prestarono a aiutare i profughi che arrivavano a trovare una prima occupazione, una prima sistemazione. All'accoglienza, al momento dell'accoglienza ai profughi, non c'erano solo queste persone, c'era un comitato dei profughi che funzionava fin dal 47, fin dall'inverno del 47 a Bolzano. E il comitato era importante perché sostanzialmente diceva chi era profugo e chi non lo era, cioè diceva chi poteva avere diritto a quelle che oggi si verrebbe da dire agevolazioni, ma agevolazioni non erano, perché era la richiesta del minimo per vivere. Poter riuscire ad avere una casa per chi arrivava, riuscire ad avere un lavoro per chi veniva. E quindi l'attività di questo comitato fu importante, ma fu importante anche l'attività del comitato nazionale, che poi fu riconosciuto come ente dallo Stato, fu riconosciuto, ebbe un riconoscimento ufficiale come unico ente istituzionale che era delegato a riconoscere i profughi, cioè a rilasciare la qualifica di profugo. C'è da dire che chi arrivava come profugo veniva subito iscritto nelle liste elettorali. È un dato interessante, perché molti di questi arrivano tra il 45 e il 55, insomma, abbiamo visto, e arrivano soprattutto con l'esodo di Poro del 46, arrivano, del 47, scusate, arrivano alla vigilia delle elezioni del 48. Sono una massa di manovra incredibilmente importante, perché vengono da terre che sono state conquistate da un paese comunista. Ed è una massa di manovra politica spaventosamente importante, non solo a livello locale, evidentemente, ma a livello nazionale. Una massa di manovra che in parte la Democrazia Cristiana, ma anche altri partiti, utilizzeranno in questo senso. Cioè, dietro a quello che diceva il professor Corni, cioè l'utilizzo anche politico, lo strumento politico, cioè riuscire a far diventare una questione importante da un punto di vista sociale, riuscire a farla diventare uno strumento diciamo, una manovra politica. Insomma, questo è un dato che va anche tenuto presente in questa storia. Arrivano i profughi e arrivano in un Alto Adige, come capite, quello del dopoguerra, messo male come erano messe male tutte le province italiane. Un decreto prefettizio del 1946 che disciplinava l'immigrazione e la permanenza della popolazione nei comuni di Bolzano e Merano dava una serie di limiti perché insomma, c'era una situazione di vita quotidiana difficilissima. Allora si cercava di limitare gli arrivi in questi comuni. C'era un'eccezione però per i profughi, gli sfollati e i sinistrati che dimostrino tale loro qualità con attestazione, si diceva in questo decreto prefettizio, dell'autorità di pubblica sicurezza del comune di origine e di provenienza. Perché lo cito? Perché i profughi quando partivano dalle zone dalle zone o da dove erano o dai posti della loro partenza, penso Pola ad esempio, all'atto della loro partenza venivano qualificati come profughi, cioè partivano già con il certificato di profugo, quindi arrivavano senza dover dimostrare nessuno di esserlo, quindi arrivavano e potevano in qualche modo aspirare ad avere la prima assistenza che veniva loro garantita. ancora una circolare del gennaio del 47, siamo, come capite, anche qui alla vigilia dell'esodo da Pola, chiedeva espressamente ai sindaci di avere un occhio di riguardo per i profughi che arrivavano e permettere loro di rientrare in pieno nella loro attività lavorativa. C'era una richiesta di attenzione per artigiani e piccoli esercenti. Arrivavano però, come dicevamo, in una situazione di sofferenza sociale, negli anni dell'immediato dopoguerra. E io ho citato nel piccolo contributo che ho scritto un passaggio, una testimonianza interessante, in qualche modo che dà la dimensione di questa guerra tra i poveri che scoppiava inevitabilmente di fronte ad uno stato di sofferenza, qual era quello dell'Italia dell'immediato dopoguerra. La testimonianza di una maestra che in quegli anni aveva avanzato domanda per fare supplenza e che ricordava il fatto che lei ha dovuto aspettare moltissimo perché prima di lei c'erano le domande dei profughi, le domande di supplenza dei profughi che andavano in qualche modo a cui doveva essere data precedenza. La situazione dell'accoglienza per molti profughi non fu comunque una situazione serena e tranquilla. Ricordiamo che erano state allestite delle caserme per dare un primo alloggio ai profughi. All'Aives, la caserma Guella, ad esempio, funzionò allo scopo, e anche una baracca militare ai piani di Bolzano. C'è anche da ricordare che ancora nel 1963 esistevano 15 campi profughi in Italia con 8.493 esuli nel 63. Insomma, hanno fatto un po' di fatica a sciogliere alcuni dei problemi che c'erano. Dicevamo prima dell'importanza dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che non fu solo il cervello statistico dell'associazione, ma fu importante associazione che si preoccupava non solo delle questioni dell'alloggio, tant'è che l'associazione aveva anche nei suoi scopi quello di promuovere la costituzione di cooperative per l'alloggio agli esuli. Aveva anche, espletava anche delle attività, potremmo definirle per il tempo libero, ma per tenere viva anche la comunità giuliano-dalmata, organizzava soggiorni estivi per i bambini delle colonie, organizzava anche balli, feste, gite al Sacrario Militare di Re di Puglia, alla Casa di D'Annunzio al Vittoriale. Questo è uno schema che poi tanti altri comitati hanno, e un po' in tutta Italia seguono questo programma, e oltre ad avere un vero e proprio ruolo di assistenza nel caso, ad esempio, della distribuzione dei pacchi a Natale e a Pasqua. Dicevamo prima parlavamo della destinazione degli esuli. Ho trovato interessante analizzare il capitolo che riguarda l'esodo da Pola, perché a me è capitato, leggendo una pubblicazione molto conosciuta nella cerchia degli esuli, che è la pubblicazione di padre Rocchi, che è un cappellano militare morto nel 2003, che fu poi lo spirito vivo di questa associazione. Ho trovato un appunto interessante, molto interessante. Padre Rocchi dice: a un certo punto, quando si capiva che da Pola avevano deciso di partire quasi tutti, 28.000 partono da Pola, quasi tutta la città. Il Comitato di Liberazione Nazionale di Pola avvia una serie di contatti a Roma per capire di trovare una soluzione. E vanno a parlare con Einaudi. Probabilmente il 46, probabilmente, perché tra febbraio e marzo del 47 parte il Toscana. Nell'estate del 46 si sa qual è la sorte di Pola. Quindi in quei mesi molto probabilmente. Einaudi fa parte della consulta nazionale, è nell'assemblea costituente ed è governatore della Banca d'Italia. Poi una persona importante, un referente importante del istituzionale. E Einaudi dice, perché non pensiamo all'Alto Adige? Perché non pensiamo che la giusta collocazione sia lì perché ci sono gli alberghi che li possono accogliere, perché ci sono le industrie che possono dare lavoro agli operai? Perché non lì? Questo mi ha intrigato moltissimo perché tra il 43, 45 e il 46 si arriva in Alto Adige ci sono i passi che portano alla sigla dell'accordo di Parigi. In quei due anni, tra il 45 e il 46, le spinte da parte della minoranza di lingua tedesca, le rappresentanze istituzionali e gli equilibri, come voi capite, il futuro stesso di questa terra doveva essere disegnato. Quindi le pressioni erano fortissime. E si è parlato di una, in questo, ripensando e riflettendo su questa storia, si è parlato di una immigrazione massiccia di italiani in Alto Adige, che poi è proseguita, secondo alcuni, molto in là, fino agli anni 60 e oltre. E ci furono, nello stesso mese in cui si diede il via all'esodo, ci furono a livello di contatti diplomatici delle rimostranze da parte della minoranza di lingua tedesca, sostenute ovviamente ci furono delle rimostranze perché si diceva qui stanno arrivando masse di italiani. L'esito dell'esodo poi fu tale da, primo, qui in Alto Adige non arrivarono masse di esodati, non arrivarono ad esempio gli operai, perché come abbiamo visto la componente operaia non ci fu. Ma questo non va detto anche che non fu una scelta solo dell'Alto Adige, perché la scelta di evitare il concentramento di esuli in singole località, o addirittura la creazione di nuove località, fu una decisione a livello nazionale, che tra il resto portò a qualcosa di che io reputo tragico, perché molti di questi esuli finirono a bonificare sostanzialmente le paludi a Fertiglia, in Sardegna. Andarono a popolare quella zona lì. In Alto Adige che cosa successe? De Gasperi non poteva essere, apriamo questo capitolo, e qui apriamo, poi chiudo perché mi pare che sia anche ora. Apriamo questo capitolo della presenza e del peso che gli esuli ebbero, l'immigrazione in questo caso, l'arrivo degli esuli. È stato detto appunto che nel dopoguerra ci fu una seconda politica di italianizzazione forzata. Questa è una tesi che poi diventò forte negli anni 50. Ma è un'ipotesi che non regge. Non regge. Come faceva De Gasperi che conosceva benissimo la realtà? Che aveva davanti la soluzione, che doveva in qualche modo portare a soluzione il problema altoatesino. Come faceva a permettere che arrivassero decine di migliaia di esodati in Alto Adige? Ma sarebbe stato un suicidio politico. Tant'è che con intelligenza e acume, cosa che gli va assolutamente riconosciuta come politico, nel 1946, qualche mese prima della firma dell'accordo di Parigi, scrive ai ministri del suo governo dicendo: guardate, cerchiamo di frenare la sostanza della missiva, cerchiamo di fermare l'esodo, cerchiamo di fermare l'immigrazione in Alto Adige. Fa capire che non è il momento, non è proprio da scegliere questa opzione. E di fatto non sarà così, cioè non arrivarono qui le masse degli esodati. Questo però non vuol dire che De Gasperi non fosse altrettanto consapevole del fatto che una presenza importante della comunità di lingua italiana in generale in Alto Adige avesse un peso fondamentale. Lo aveva detto già, lo aveva fatto già capire parlando di quella zona. Parlando di quella zona, quando tra il 43 e il 45 questi 4-5 mila se ne vanno da quelle terre, e poi finita la guerra c'è il ritorno a casa, si calcola che circa 120 mila persone stessero fuori da quei territori. E De Gasperi, quando si trattava di cercare una soluzione anche per il problema del confine orientale, diceva: ma forse è opportuno che noi facciamo rientrare, non solo per una questione umanitaria che va tenuta presente, ma forse anche per un problema di peso di questa presenza, dell'importanza che questa presenza ha per il futuro di quel territorio, di quella terra. Perché è chiaro, una presenza importante può spostare sul tavolo delle trattative un equilibrio, può essere importante per farlo. Quindi questo per dire che cosa? Che anche in Alto Adige la riflessione, il pensiero fu questo. Certo, non un'immigrazione massiccia, ma permettere una oculata, definiamola così, politica di arrivo, in modo da garantire, come sarà dopo, garantire quelli che sono due capisaldi della Costituzione, che sono uno la libera circolazione e il fatto che le regioni non potevano ostacolare l'immigrazione. Però questo significò di fatto che qui in Alto Adige arrivarono degli italiani e ci fu il posto per accoglierli, per sistemarli, in una concezione, in un quadro politico che aveva come elemento forte, come anche elemento strategico, il mantenimento di una forte minoranza italiana in Alto Adige. Non fu un'immigrazione di massa, ma sicuramente il mantenimento di una forte e possibilmente articolata minoranza di lingua italiana in Alto Adige. Credo di aver detto quasi tutto quello che volevo dire. E un'ultima cosa, ve la cito perché su questo tema in particolare scrisse anche Indro Montanelli, che insomma era una persona che non serve presentarlo. E rispondendo proprio a chi gli chiedeva: ma insomma De Gasperi poteva prendere questi che erano gli italiani di confine, anche loro, poteva spostarli in Alto Adige, costruire una sorta di cuscinetto rispetto all'Austria, un cuscinetto etnico forte, e avrebbe risolto la questione dell'Alto Adige. Montanelli scrive: simili trapianti di popolazione, lo scrive nell'88, sul giornale, il 30 dicembre dell'88, nella sua rubrica La parola ai lettori. Simili trapianti di popolazione decisi a tavolino in base a criteri politici o sono forzati, e allora ci vorrebbe un regime che meglio possa imporli, o diventano un'utopia. È proprio sicuro, rispondendo a questo che gli chiedeva, che questi profughi avrebbero preferito andare a Bolzano, Bressanone, Merano, piuttosto che Trieste, Venezia, Milano, gli Stati Uniti? Ritiene davvero che un'operazione di questo genere sarebbe sembrata corretta e democratica all'opinione pubblica internazionale? Beh, io penso che questo ragionamento l'abbia fatto anche in parte De Gasperi. Disponessero del loro certificato all'atto della loro partenza, un certificato all'atto della loro partenza. Una cosa interessante, tra il resto, per chi veniva in Alto Adige, che va anche tenuto presente, nel bando di partenza da Pola c'era una voce espressamente dedicata a chi si sarebbe trasferito nel Trentino Alto Adige. Lavoratori, non solo lavoratori, ma anche lavoratori della campagna, a dimostrazione che in Trentino Alto Adige si era aperta una corsia preferenziale rispetto a questo esodo. Questo è riportato dalla Romano, che pubblica l'atto in appendice. C'è il bando della partenza. Lì c'è anche la notizia, viene riportata la notizia del rilascio dell'attestato, della dichiarazione di profugo per la partenza. Ma infatti poi noi qui a Bolzano avevamo Don Odorizzi, sì, che lui faceva, verissimo, aiutava tutti i profughi, sì, facendo anche delle certificati di nascita, esatto, di battesimo, sì, eccetera, quello che poi, sì. Lui fu mandato dal, questo è importante che lei l'abbia citato, Don Felice Odorizzi. Ebbe il compito dal CLN di Pola di fare un sondaggio nel Trentino Alto Adige per capire qual era la capacità e la possibilità di accoglienza dei profughi, e andò a Trento per riuscire a parlare con non solo le autorità, ma anche chi poteva poi dare materialmente una mano per l'accoglienza e una prima sistemazione, e venne anche a Bolzano. Parlò in prefettura, andò anche alle acciaierie e cercò di predisporre per l'arrivo dei profughi, e cercando anche di preparare all'arrivo di manovali, carpentieri che avrebbero poi aiutato, avrebbero lavorato poi nella fase della ricostruzione della città. Perché, insomma, rispetto alla qualifica, al certificato di profugo, la situazione di chi partiva senza questa dichiarazione era assai complicata, perché o quando arrivava nel luogo di arrivo trovava un comitato disposto a fare quella dichiarazione, altrimenti non avrebbe avuto quell'aiuto che era disposto per legge, che dava la possibilità a tutti i profughi di poter avere una prima sistemazione. Forse mi sono spiegato io allora, male, no? Forse mi sono spiegato male io. Allora, è evidente che non c'è stata, insomma l'abbiamo detto, l'abbiamo con molta chiarezza, mi pare di averlo detto. Allora, la questione, semmai, è capire, perché un conto è fare questo tipo di affermazione, un conto è di completarla questa affermazione, perché che cosa deve portare a dire questa affermazione? Che forse lo Stato, il governo italiano ebbe nei confronti dell'Alto Adige un'attenzione particolare e di riguardo rispetto agli equilibri etnici? Ma io credo che in un difficile equilibrio che doveva essere cercato, perché premeva anche la questione dei rioptanti, evidentemente. I rioptanti hanno altri numeri, era un altro peso dall'altra parte. Io le cito solo molto brevemente, perché altrimenti ci sarebbe qui materia per stare fino a domani mattina. Le cito solo un passaggio nei progetti di statuto che sono in qualche modo formulati prima del 48, in cui c'erano sostanzialmente due tesi forti. Una che veniva portata avanti dalla minoranza di lingua tedesca, dalle sue rappresentanze istituzionali, in cui si diceva la regione, l'ente regione, deve porre un limite all'immigrazione. Ed era evidente che questo sosteneva la tesi di chi diceva non vogliamo che gli italiani arrivino. Dall'altra parte Innocenti, prefetto, che fu anche l'estensore della bozza di statuto, cercò, la cosa interessante, cercò di costruire un comma, un articolo su questo che mettesse freno a questa ipotesi e che in qualche modo aprisse invece la questione. Quando Innocenti deve spiegare nel 54, quando presentano dei dati statistici sull'immigrazione italiana, dice che per senso di scrupolo l'Italia non fece arrivare gli esuli in Alto Adige, non è vero, perché non fu per senso di scrupolo, fu per un problema di calcolo e di tattica politica nel tavolo delle trattative per l'accordo di Parigi. Allora, la storia è ovviamente un po' diversa se collocata in un contesto che cerchi di articolarla, altrimenti ha ragione lei, altrimenti i numeri darebbero altre ipotesi. Per quello che riguarda le altre due lampadine, visto che sono stato tirato, non sono in grado di spegnerle, possiamo, anche perché non è assolutamente questo il tema di cui stiamo trattando, no? Quello delle politiche militari dell'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale, eventualmente possiamo organizzare un incontro apposito se ne avete voglia, tuttavia non serve a, secondo me non serve granché a rilanciarsi l'uno contro l'altro, diciamo così, se due campi ci sono, non lo so, se due campi ci sono, rilanciarsi l'uno contro l'altro accuse di esagerare in un senso o di esagerare in un altro. Perché quello che invece occorre fare è prendere in considerazione la documentazione. E la documentazione c'è, la documentazione è indiscutibile. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale alcuni governi, il governo jugoslavo soprattutto, il governo greco, il governo albanese e il governo russo, stilarono una lista che inviarono alle Nazioni Unite con più di 800 nomi di persone che loro dichiaravano criminali di guerra che avrebbero dovuto essere sottoposte a processo dal loro punto di vista, e come noto il governo italiano non ha estradato nessuno di questi 800 e nemmeno ha fatto un solo processo nei confronti di qualcuno di questi oltre 800 considerati criminali di guerra ma mai sottoposti a processo, e quindi poiché non sono stati processati, come dire, non sono né innocenti né colpevoli dal punto di vista storico, il problema si pone fin dall'inizio. Allora, questi sono elementi che vanno naturalmente anche tenuti presenti. È vero che c'è una differenza tra gli atteggiamenti delle camicie nere, per esempio, e i reparti dell'esercito. Però si è lungamente sottovalutata l'entusiasmo anche dei soldati ufficiali semplici che non erano camicie nere nei confronti del fascismo. Cioè non è vero che gli italiani vanno tutti in guerra solo perché bisogna, si deve, tocca e si sa, poi l'alpino porta il peso e l'importante è portare a casa la ghirba, no? Come dicono gli alpini. Non è vero. Certo, moltissimi andavano in guerra senza entusiasmo. In Italia